GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Siamo davanti a sfide epocali. Il presidente della regione Massimiliano Fedriga ha esordito così nell'illustrazione del programma di governo al Consiglio regionale riunito per la seconda volta dopo l'insediamento di alcuni giorni fa. Nell'occasione è presentato in aula l'esecutivo con le rispettive deleghe. Le reazioni delle categorie produttive della regione di fronte al decreto del governo approvato ieri che comprende sgravi fiscali, misure urgenti per l'inclusione sociale e in generale per l'accesso al mondo del lavoro. Dal monitoraggio del Sole 24 Ore sullo stato di avanzamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza emergono dati non positivi per la nostra regione e in particolare per Pordenone. È ripresa a metà mattinata la circolazione ferroviaria sulla linea Trieste-Venezia sospesa dopo l'investimento di una persona nel tratto tra San Donà di Piave e Quarto d'Altino. Disagi e ritardi per i passeggeri di diversi convogli. Rimane a carico di ignoti il fascicolo aperto dalla Procura di Udine per omicidio colposo e disastro aereo per ciò che è successo a Lusevera e nel quale hanno perso la vita due persone, tra cui il capitano delle Frecce Tricolori, Alessio Gersi. La partita tra Udinese e Napoli, che potrebbe assegnare lo scudetto ai partenopei, si giocherà giovedì alle 20.45 allo Stadio Friuli. La decisione è arrivata al termine della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica, svoltosi in prefettura a Udine. No women, no panel, senza donne non se ne parla, è la campagna della Commissione Europea per promuovere il coinvolgimento delle donne negli enti e nei dibattiti pubblici. La Libertas Martignacco rinuncia alla Serie A2 di pallavolo femminile, le nuove norme sul lavoro sportivo ci impongono una revisione della struttura societaria, ha dichiarato in un comunicato la società. Le 12:32 minuti in questo istante, ancora un buongiorno da Giorgio Bearz e Dario Ronzoni per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di martedì 2 maggio. In apertura dunque la seduta del nuovo Consiglio regionale con la presentazione delle linee programmatiche di governo da parte del Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, dal PNRR alla denatalità, dalla logistica ai collegamenti, passando per le crisi aziendali e il turismo. Questa legislatura sarà decisiva, ha detto Fedriga nel suo intervento, perché sarà quella dell'attuazione del PNRR che ha bisogno però di correzioni. Nella stessa occasione anche la presentazione dei componenti della sua giunta. Sanità, lavoro, infrastrutture, ma anche PNRR. Davanti al nuovo Consiglio, il Presidente della Regione Massimiliano Fedriga ribadisce le linee programmatiche partendo da un parallelismo tra il post-terremoto e il post-pandemia. Ne siamo usciti diversi, non so se migliori, ha detto, citando i risultati economici e sociali. La vitalità dei cittadini non è sufficiente, la parte pubblica deve identificare gli strumenti per crescere ancora di più e trovare i finanziamenti per farlo. L'obiettivo sulla sanità è ridurre i tempi di attesa, ma anche quello di formare i nuovi professionisti attingendo dal mercato per ridurre immediatamente i buchi in organico. Sul piano nazionale di resistenza e resilienza, Fedriga ha esplicitamente parlato di correzioni, soprattutto sulle tempistiche, auspicando un intervento dell'Europa e del governo nazionale. Proprio il dialogo con l'esecutivo sarà al centro di tanti temi: demografia, immigrazione, con un nuovo decreto flussi che renda il paese attrattivo per capitali e persone formate, ma soprattutto sulle infrastrutture, con il rilancio del progetto dell'alta velocità e sulla risoluzione delle crisi aziendali. Serve salvaguardare l'occupazione e l'interesse nazionale, nel caso specifico una filiera strategica per il paese, ha detto riferendosi a Varzila, prima di augurarsi una collaborazione migliore con l'opposizione, che però promette battaglia sui temi. Un discorso di buone intenzioni già sentito, soprattutto sulla sanità e sul ricorso al privato convenzionato, diremo no. L'opinione di Furio Onsel, di Open e Partito Democratico. Il Consiglio si riunirà di nuovo la prossima settimana proprio per la discussione in aula dell'intervento di oggi di Fedriga. Trieste, Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. Ieri nelle manifestazioni in occasione del 1° maggio abbiamo sentito la posizione dei sindacati sull'attuale momento vissuto dai lavoratori. Oggi sentiamo invece le reazioni delle categorie produttive della regione di fronte al decreto del governo approvato ieri che comprende sgravi fiscali, misure urgenti per l'inclusione sociale e in generale per l'accesso al mondo del lavoro. Promuove il decreto lavoro del governo Meloni l'assessore regionale al lavoro Alessia Rosolenne, per la quale ora serve tuttavia intervenire con più determinazione in modo strutturale sul fronte dell'innalzamento stabile dei salari, della lotta alla precarietà del lavoro e del calo demografico. In questi ultimi due ambiti la regione ha spazi di manovra ampi, afferma l'esponente dell'esecutivo Fedriga, annunciando interventi mirati soprattutto a garantire stabilità occupazionale ai giovani. Le misure del governo sono un buon inizio, ma vanno confermate anche per il futuro. futuro, commenta il presidente di Confartigianato Friuli Venezia Giulia, Graziano Tilatti. In regione, sottolinea, le aziende hanno già cominciato a fare la loro parte attuando le misure sui benefit e welfare previste dalle normative vigenti e ora col nuovo decreto lavoro lo faranno ancora di più, ma questo non basta, secondo il referente degli artigiani, che pure sollecita l'impegno di governo e parti sociali per ridare potere d'acquisto e dignità salariale ai lavoratori, come già si sta facendo nelle nostre piccole imprese dove le risorse umane sono il vero fattore di competitività, rimarca Tilatti. Sul decreto lavoro positivo anche il giudizio del presidente di Confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti, bene il fatto che si sia cominciato a intervenire sul cuneo fiscale, come da sempre richiede Confindustria, ricorda, la misura non è sufficiente ma tiene conto dei conti dello Stato, aggiunge, altro è dover intervenire sul cosiddetto lavoro povero, prosegue Agrusti, indicando tra le molteplici strade possibili quella dei contratti di secondo livello, bene anche il tetto dei 3.000 euro sui bonus aziendali non tassati. Quanto al lavoro precario, anche Agrusti richiama la specificità regionale, dove i contratti a termine sono di norma trasformati in lavoro fisso e la volontà di avere manodopera competente e stabile, sottolinea, è una politica che le imprese hanno già dentro le proprie corde. Lara Boccalonti, GR Friuli Venezia Giulia. E torniamo a parlare proprio di PNRR. Dal monitoraggio del Sole 24 Ore sullo stato di avanzamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza emergono dati non positivi per la nostra regione, in particolare per Pordenone. In Molise arriveranno fino a 4.650 euro per abitante, in Friuli Venezia Giulia appena 896, la quota più bassa in Italia. I dati riportati dal quotidiano Il Sole 24 Ore indicano l'investimento pro capite finora attivato con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, tracciato sulla piattaforma messa a punto dalla Ragioneria di Stato per monitorare i finanziamenti europei e alimentata dai singoli enti, suddivisi per regioni e rapportati alla popolazione residente. Il sistema identifica anche il numero dei progetti attivati al 1 marzo, che per la nostra regione è di 2.534, per un finanziamento di oltre 1 miliardo di euro. Scorrendo la classifica delle province per investimenti pro capite, tra quelle a fondo graduatoria c'è Pordenone con 484 euro, a Benevento l'investimento pro capite è 6 volte tanto. I progetti attivati in Friuli Occidentale risultano 572 per 150 milioni di euro. Per quanto riguarda invece le missioni del PNRR oggetto di riparto territoriale, circa un terzo dei fondi in regione sono destinati alla voce rivoluzione verde e transizione ecologica, seguita da istruzione e ricerca, 22,3%, e infrastrutture per una mobilità sostenibile. Il capitolo salute assorbe quasi il 13% delle risorse destinate al Friuli Venezia Giulia, il dato più alto in Italia. Pordenone, Natascia Gargano, TGR Friuli Venezia Giulia. La partita tra Udinese e Napoli, che potrebbe assegnare lo scudetto ai pardenopei, si giocherà giovedì alle 20:45 allo Stadio Friuli. La decisione è arrivata al termine della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica svoltosi in prefettura a Udine. Gli azzurri di Spalletti arriveranno in città domani, ma sentiamo in merito il prefetto di Udine, Massimo Marchesiello. L'orario è confermato, 20:45 per la partita Udinese-Napoli e molto probabilmente la squadra, arrivando il giorno prima, sosterà anche durante la giornata di giovedì, per permettere poi di tornare insomma, con un volo a Napoli. Il Napoli potrebbe festeggiare già prima lo scudetto? Sì, infatti comunque il dispositivo anche più che di vigilanza, ma comunque di cinturazione della squadra verrà già attivato da domani. Quindi comunque sono stati richiesti dei rinforzi alla segreteria, al Dipartimento DPS, perché comunque ci sia un ulteriore rafforzamento della vigilanza e della sorveglianza, ma insomma nessun problema particolare di ordine pubblico. Ovviamente si spera e si auspica che non ci siano contrasti con le tifoserie, con la tifoseria dell'Udinese. Ecco, questo è l'auspicio che tutti ci siamo rivolti e anche la società udinese comunque si attiverà perché ci sia sicuramente un'attività di mediazione nei confronti dell'Udinese. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. È ripresa intorno alle 10:15 la circolazione ferroviaria sulla linea Trieste-Venezia, dopo che il treno delle 7:25 Trieste-Torino è stato sospeso, dopo che il treno delle 7:25 Trieste-Torino aveva investito una persona nel tratto tra San Donato di Piave e Quarto d'Altino. Come ha precisato Trenitalia, a bordo del treno c'erano 249 passeggeri. L'interruzione ha causato disagi con conseguenze sulla circolazione di Frecce e di treni regionali. E torniamo a occuparci ora della tragedia dell'ultraleggero schiantatosi sabato scorso al suolo nei dintorni di Lusevera e che ha causato la morte di due persone, tra cui il capitano Alessio Gersi delle Frecce Tricolori. Un incidente che ha posto nuovi interrogativi sulla sicurezza di questo tipo di velivoli. Prosegue intanto l'inchiesta della magistratura, che sta acquisendo tutti gli elementi utili a ricostruire la dinamica dell'incidente. Rimane a carico di ignoti il fascicolo aperto dalla procura di Udine per omicidio colposo e disastro aereo per l'incidente a Lusevera, in cui hanno perso la vita il capitano delle Frecce Tricolori Alessio Gersi e il marito della cugina Santa Ciaccia. In questo momento, ci dice il procuratore della Repubblica di Udine Massimo Lia, siamo in una fase di raccolta di informazioni, proprietà del velivolo, stato di efficienza e manutenzione. Bisogna capire cosa sia realmente successo. Tra oggi e domani verrà conferito l'incarico ad un esperto del settore per una consulenza tecnica e un incarico al medico legale per effettuare l'autopsia sui resti dei corpi. Intanto continua il tributo dei cittadini alla base del secondo stormo di rivolto, casa delle Frecce Tricolori. Udine, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. Due incidenti si sono verificati in mattinata, entrambi senza gravi conseguenze. A Cordenons, intorno alle 10, una ragazza di 30 anni è finita in un fossato a bordo strada lungo la provinciale 51 dopo aver perso il controllo del mezzo. È stata trasportata in ospedale a Pordenone con ferite non gravi. A Udine, in Viale Tricesimo, un uomo su un monopattino si è scontrato con un'automobile. Nell'impatto è caduto, rovinando sull'asfalto, ma non ha riportato gravi ferite. I sanitari l'hanno trasportato all'ospedale cittadino. Nei giorni scorsi si è svolta la prima delle due giornate di formazione congiunta tra la stazione di Trieste del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico ed il personale medico delle emergenze territoriali di Asugi. L'esercitazione si è svolta in Val Rosandra, nel settore di arrampicata denominato Formai, caratterizzato da una placca di roccia inclinata. Raggiunta la sommità è stato simulato il recupero di un ferito con trauma cranico, con il trasporto fino alla chiesa di Santa Maria in Siaris, con tecniche diverse in base alle caratteristiche del terreno. A partire da oggi il corso di laurea in infermieristica dell'Università di Trieste si trasferisce nella nuova sede, nella centrale idrodinamica del Porto Vecchio di Trieste. Gli studenti del terzo anno frequenteranno immediatamente le lezioni nel complesso dell'ex hub vaccinale, mentre da ottobre prossimo si insiderà tutto il triennio del corso di laurea. La centrale idrodinamica ospiterà inoltre laboratori ed esercitazioni a supporto delle attività formative professionalizzanti. Un'ampia aula didattica e poi due grandi laboratori preclinici di simulazione attrezzati con manichini e aree pratiche. La centrale idrodinamica di Trieste, sede convegni del comune che i cittadini hanno conosciuto come hub vaccinale in questi anni di pandemia, ora cambia veste e accoglie gli studenti di scienze infermieristiche. Da subito quelli del terzo anno, dal prossimo anno l'intero corso di laurea. In chiusura quindi la storica sede di Valmaura in via di dismissione. Abbiamo un luogo unico, nuovo e ben collocato fronte mare e vicino alla stazione ferroviaria, spiega il direttore dei corsi di laurea medico-sanitario Nicolò De Manzini. Pensiamo di essere quindi più attraenti come università per una formazione d'eccellenza. Accorpare i luoghi dell'apprendimento medico-sanitario è una missione del rettore Roberto Di Lenarda, che ha appena ottenuto 50 milioni di euro dalla regione per il futuro campus universitario che nascerà nei pressi dell'ospedale di Catinari, accanto al polo cardiologico e al centro di simulazione. La struttura sorgerà entro il 2027 fa parte del grande cantiere di ristrutturazione dell'intero nosocomio. Da anni lavoriamo a questo grande progetto, commenta il rettore. Vogliamo dare ai nostri studenti una formazione ampia con spazi educativi e di apprendimento adeguati e vicini, in modo che tutte le professionalità possano goderne facilmente e imparare dall'interscambio conoscitivo. L'assessore alla sanità Riccardo Riccardi ha parlato dell'importanza del ruolo degli infermieri in una società che invecchia sempre di più e ha bisogno di assistenza. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli, Venezia Giulia. E alle 12:44 minuti e 30 secondi apriamo la pagina del tempo. Il cielo è coperto con piogge da deboli a moderate sulla regione. Queste le temperature registrate poco fa. Trieste e Udine 14 gradi e 5 decimi, a Gorizia 13 gradi e mezzo, a Pordenone 15. a Tolmezzo 11 gradi, a Tarvisio 10, a Forni di Sopra 8, a Sappada 7 gradi e mezzo, a Piancavallo 6 gradi e 5 decimi. Sul Monte Zoncolan 2 gradi e mezzo, sul Lussari 2 gradi e passando la costa a Lignano 13 gradi e 5 decimi, a Grado 14 e 5. E le previsioni per oggi: nel pomeriggio e in serata cielo coperto con piogge da deboli a moderate, localmente più abbondanti sulla costa. Quota neve oltre 2000 metri, soffierà vento da nord-est moderato e da domani bel tempo. La dichiarazione dei redditi precompilata 2023. Da questo pomeriggio le dichiarazioni già compilate dall'Agenzia delle Entrate potranno essere consultate. Il passo successivo arriverà giovedì 11 maggio, quando sarà possibile accettare, modificare e inviare il 730 e il modello dei redditi. Quest'anno ricordiamo che la precompilata è accompagnata da importanti novità. Tra queste possibilità, quella di delegare una persona di fiducia sia online che in videochiamata. No women, no panel. Senza donne non se ne parla. È la campagna della Commissione europea per promuovere il coinvolgimento delle donne negli enti e nei dibattiti pubblici. Se ne è parlato stamattina a Buongiorno Regione, partendo dalla lettera pubblica firmata da un gruppo di docenti del Centro Interdipartimentale degli Studi di Genere dell'Università di Trieste. Senza donne non se ne parla, altrimenti ci troviamo di fronte ad una realtà rappresentata solo a metà. Per rafforzare il ruolo delle donne sulla scena sociale, politica e culturale, la Commissione europea ha avviato nel 2018 la campagna No Women No Panel, senza donne non se ne parla, alla quale hanno aderito diverse istituzioni locali e servizi pubblici, tra i quali c'è anche la RAI. Ciò nonostante, nella nostra società continuiamo a compiere degli errori. A segnalarlo un gruppo di docenti del Centro Interdipartimentale degli Studi di Genere dell'Università di Trieste, che a metà marzo ha pubblicato una lettera aperta segnalando il caso dell'Assemblea Generale di Confindustria Alto Adriatico, un caso tra tanti altri in cui c'era una sola relatrice donna. La professoressa Elisabetta Vezzosi. Le competenze esistono e che ci vuole un pensiero ogni volta che si organizza un incontro, una conferenza, un dibattito, perché la non presenza delle donne distorce la realtà. Una critica inaccettabile, la replica del presidente di Confindustria Michelangelo Agrusti, che ha spiegato che ad essere invitati sono stati i rappresentanti delle istituzioni e gli esponenti in materie tecniche, che continuano ad essere in prevalenza uomini. Intanto sono passati 5 anni dal lancio della campagna No Women No Panel. La RAI è stata una delle prime a firmare un protocollo su questo, perché le donne abbiano accesso sempre ai dibattiti pubblici, perché la voce delle donne va ascoltata esattamente come quella degli uomini. L'aggiungo solo che l'Italia, sebbene abbia un primo ministro donna, è al 14° posto in Europa per parità di genere. Trieste, Vaciutti, GR, Friuli Venezia Giulia. Si intitola Ricercando sulla via Go 2025, il bando per artisti under 35 organizzato dal Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia e il Teatro Stabile Sloveno. Una selezione in vista di una serie di laboratori in programma tra giugno e luglio e tenuti da docenti di grande importanza sia nella scena italiana che in quella slovena. Per chi fosse interessato, il bando è aperto a tutti gli artisti dell'Unione Europea, c'è tempo fino al 15 maggio. Abbiamo chiesto a Daniel Malalan, direttore del Teatro Stabile Sloveno, che tipo di persone stanno cercando. Non si tratta di una ricerca di solo attori o di attori specifici, ma di giovani artisti che lavorano in un ambito artistico molto ampio, quindi attori, ma anche registi, sceneggiatori o magari quelli che scrivono anche i testi teatrali. In quest'ottica ci saranno anche i relatori, quelli che guideranno questi 6 diversi laboratori da provenienze diverse, quindi citerei sicuramente Mauro Kovacic, conosciuto, poi Silvia Mercuriali, Gianfranco Berardi e Gabriella Casolari, per poi arrivare a Igor Pison, Neda Russian Brit e Yasmin Kovic. Quindi sono artisti già avviati da varie provenienze, registi teatrali, scrittori, scrittrici, ma anche gente che si occupa di nuove tecnologie multimediali e così via. E cosa impareranno questi artisti? Spero che imparino tutto quello che concerne il lavoro artistico. Ogni relatore sarà libero di scegliere i contenuti che riterrà più opportuni. E lo sbocco quale sarà? Diciamo che l'intenzione è quella, logicamente, di presentare il lavoro svolto in queste 6 settimane, poi vedremo anche in base ai candidati che ci saranno, logicamente, guardando da un punto di vista ottimistico, artistico e così via, di creare anche uno spettacolo, non subito già in quest'anno del 23, ma questo è comunque un progetto che si cerca di portare avanti anche nel 24 e nel 25, quindi arrivare proprio in quell'anno quando ci sarà la capitale della cultura europea. Una notizia di sport, pallavolo, la Libertas Martignacco rinuncia alla Serie A2 di pallavolo femminile. Le nuove norme sul lavoro sportivo ci impongono una revisione della struttura societaria, ha dichiarato in un comunicato la società che pochi giorni fa aveva ufficializzato anche l'addio all'allenatore Gazzotti. Per questo riteniamo responsabile e opportuno rinunciare per la prossima stagione alla Serie A2. L'intenzione è di impiegare questo tempo per ridare slancio al settore giovanile. In ogni caso, conclude il comunicato della società, non si tratta di un addio, ma di un arrivederci. Qualche appuntamento per oggi. Iniziamo con Raff, cantautore italiano tra i più apprezzati, che sarà stasera a Udine, dove porterà il suo nuovo tour teatrale dal titolo La mia casa tour, al Teatro Nuovo Giovanni da Udine, inizio alle 21. Nell'ambito degli eventi di anteprima del festival Vicino Lontano sarà proiettata stasera Trieste Bella di Notte in collaborazione con Medici Senza Frontiere e il Centro Espressioni Cinematografiche. In sala per commentare il film ci sarà anche il coautore e regista Stefano Collizzolli, insieme a lui Yannick Juliot, project manager del progetto Hope, l'anestesista Chiara Pravisani e lo psichiatra e operatore umanitario di Medici Senza Frontiere Alessandro Barberio, al cinema visionario alle 20. Trieste festeggia il centenario di Livio Lorenzon, attore caratterista che ha recitato in oltre 80 film, diventando tra la metà degli anni 50 e la fine degli anni 60 un volto familiare al grande pubblico. In suo omaggio sarà proiettato stasera il film Il Vedovo, in cui recita insieme ad Alberto Sordi e Franca Valeri. Nell'occasione sarà presentato il documentario dedicato a lui con la regia di Sergio Naizza, e con lui abbiamo parlato adesso. Livio Lorenzon ci ha lasciato nel 1971, aveva soltanto 49 anni, quindi nel tempo la memoria di questo attore si è affievolita fino quasi a sfarinarsi e a disperdersi. Recuperarlo perché? Perché è stato un protagonista, una faccia da cinema, come il titolo del documentario che gli dedicheremo, del cinema popolare degli anni, fine degli anni 50-60. Era il cattivo per eccellenza, il malvagio, si sa che nel cinema popolare, quello di Capa e Spada, negli spaghetti western, nel cinema peplum dei Sandaloni, il cattivo ha un ruolo fondamentale, spesso più dell'attore protagonista. E quindi recuperarlo perché è un attore che è stato versatile, eccentrico, al di là del suo ghigno satanico da cattivo, perché quando è stato chiamato dai grandi registi, da Risi, da Leone, lui si è sempre fatto trovare pronto, dimostrando quindi di poter competere anche al fianco di altri grandi attori senza mai sfigurare. Quindi è una capacità attoriale che nel tempo è stata dimenticata e che oggi vogliamo ricordare. Può essere ancora un modello per qualcuno? Può essere un modello, nel senso che il cinema di allora era un cinema popolare, quindi che dava grande possibilità agli attori di potersi esprimere in tanti ruoli, perché Lorenzon ha attraversato davvero tutti i generi. Ma attenzione, lui è stato anche uno dei protagonisti della prima televisione italiana, della Rai, degli sceneggiati, ha partecipato a 4 sceneggiati, era un attore anche teatrale, ha fatto tanto teatro a Trieste prima di trasferirsi a Cinecittà. Quindi si tratta di riscoprirlo e di insegnare anche che la tenacia, la voglia di riuscire può insegnare qualcosa a qualcuno ancora oggi. Parte a Trieste la rassegna di incontri Libri e Vini in Piazzetta, con la presentazione reading del libro La testa per intrigo, la raccolta di 6 racconti in dialetto triestino di Corrado Premuda, appuntamento al Villaggio del Pescatore, al bar Panetteria, alle 18. Il fumetto come arte visiva, in programma la presentazione del libro Il fumetto, le sue origini e la sua diffusione in Italia, di Dario Fontana. Appuntamento al Circolo Fotografico Triestino alle 18.45. Ritorna Fuori Gioco, la rassegna pordenonese che mira a riscoprire grandi autori dimenticati. Stati. Si comincia con un incontro su Giovanni Testori con Alessandro Gnocchi e Luca Doninelli alla Biblioteca Civica con inizio alle 19. La RAI implementa e migliora il proprio sistema di trasmissione con l'avvicinamento al sistema DVB-T2 sul digitale terrestre. Dal prossimo 3 maggio in Friuli Venezia Giulia RAI 3 sarà in alta definizione. Il nuovo servizio sarà accessibile dal canale 3 del telecomando. Anche RAI 3, ricevuto sul canale regionale 809, sarà in alta definizione. Per permettere agli utenti di verificare la compatibilità dei propri ricevitori con la nuova funzionalità, sino al 2 maggio sarà attivo un nuovo canale di test al numero 102 del telecomando. Sintonizzandosi su questo canale si visualizzeranno due cartelli, uno bianco e uno colorato, con due toni audio distinti che si alterneranno ogni 20 secondi. Se si vedranno quindi alternarsi i due cartelli, si sentiranno i due toni audio, l'apparecchio sarà in grado di ricevere a partire appunto dal 3 maggio sia Rai 3 nazionale sia il canale regionale 809 in formato HD. In alcuni casi potrebbe essere necessario fare un reset dell'apparecchio avviando una nuova ricerca canale automatica o manuale. Ogni eventuale anomalia potrà essere segnalata con una mail all'indirizzo help.dtt@rai.it indicando anche il modello dell'apparecchio utilizzato. E chiudiamo con una notizia di servizio. Autovie Venete informa che verrà chiusa la rampa di collegamento del nodo di Portogruaro tra la A28 di provenienza di Conegliano e la A4 in direzione Trieste a partire dalle 23 di oggi sino alle 6 di domani. L'intervento è dovuto alle attività del cantiere della terza corsia dell'A4 tra Alvisopoli e Portogruaro. Chi proviene dalla A28 ed è diretto a Trieste dovrà uscire a Portogruaro e rientrare alla Tisana. Nessun problema invece per chi proviene da altre direzioni. Ed è tutto per questa seconda edizione del Giornale Radio, che è stata redatta condotta da Dario Ronzoni e Giorgio Beyerz, con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari e di Andrea Fontanot. Ha collaborato in redazione Laura Sarasini. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. Grazie dell'attenzione e buon pomeriggio. Abbiamo trasmesso TGR, Giornale Radio del Friuli Venezia Giulia.